Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Amen. Al termine del giorno, o sommo Creatore, veglia sul nostro riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo, il fervore allo spirito, la tua luce riste ombre della notte. Nel sonno delle membra arresti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino unico, nei secoli sia gloria. Giorno e notte dito a te, oh Signore. Signore, do della mia salvezza. Davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciclio. Sono come gli uccelli stessi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un otror. Sono prigioniero senza campo, si consuma i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani, compi forze prodigi per i morti, sorgono le ombre a darti lode. Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi, nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto. Al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono insuinito, oppresso dai tutti i terrori. Sopra di me è passata la tua ira. E tu, spaventi, mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giorno e notte grido a te, oh Signore. Sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati col tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Vieni a salvarci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, cuore veri con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli, amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio e risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Amen. Amen. Amen. Salve Regina, Madre Misericordia, vita del cielo e spes nostra salve. A te clamamos, Eccius, figli di Eva, a te sospiramos, tementes acplentes, in acqua cribarum valle. E di erba l'avvocata nostra, i los tuos misericordia soculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructu ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Amen. Amen. Amen. Amen.